cosiddetti piotri, tra virgolette, e gli operatori sanitari che fanno attività di punta, i metodi artificiali, diciamo di più. I biocrati e gli operatori sanitari che fanno attività di punta sono quantitativamente pochi e operano in una organizzazione e divisione del lavoro estremamente invisibile per la maggior parte della popolazione. Ho fatto proprio l'esperienza assieme con l'amico Antonio Autiero la settimana scorsa di un congresso internazionale sui trapianti, ed eravamo in 150, ma a livello svizzero i trapiantatori si contano su una mano. Quelli che fanno dei trapianti soprattutto di punta, come il trapianto del fegato, eccetera. E quindi siamo ancora a delle pratiche che non sono ancora generalizzate. In altre parole, si potrebbe dire paradossalmente che in questo settore della vita sociale non ci sono o non ci sono ancora costumi da regolare con lo strumento del diritto, perché qui stiamo parlando adesso dei costumi. Il riferimento ai costumi, nel campo che ci interessa qui, non può essere usata perché non ci sono ancora costumi. Non penso ancora che il trapianto sia diventato così quotidiano, per esempio, o che non so, le tecniche procreatiche siano così quotidiane da poter dire che ci sono dei costumi. Al massimo queste realtà ci sono mediate attraverso appunto il mondo dei media, ma in maniera fantastica, nei nostri fantasmi, ma non ancora nella realtà quotidiana. Quindi, se da una parte il diritto sembra essere qui quasi paralizzato dal fatto di non potersi riferire a costumi stabili preesistenti, non bisogna dimenticare che dall'altra egli stesso viene considerato, a giusta ragione, come creatore di costumi. Quindi il riferimento tra diritto e costumi è doppio. Da una parte il diritto si riferisce ai costumi vissuti, non può farne a meno, deve tener calcolo di come la gente di fatto vive e che costumi coltiva. Dall'altra però lui stesso, il diritto, è creatore di costumi. I tedeschi la manifestano con quella espressione forse non molto elegante, ma è molto chiara, la Sittenbildende der Kraft des Rechtes, no? Per quelli che sanno il tedesco. Ogni scelta che qui viene operata a livello del diritto avrà dunque conseguenze sulla percezione psicologica e morale delle pratiche biomediche stesse. Questo fatto che nessuno seriamente misconosce può avere a sua volta conseguenze diverse sui discorsi teorici interni all'etica filosofica e l'etica teologica, cioè il fatto sociologico che tra costumi e diritto ci sia un rapporto di interdipendenza può portare in teoria etica a varie conseguenze. In queste sedi, cioè dell'etica filosofica e teologica, chi tende ad approvare moralmente le nuove tecniche cercherà di non attribuire al diritto funzioni proibizionistiche o repressive per non creare così nuovi costumi ritenuti eticamente infondati. Chi invece ritiene che queste tecniche, parlo di tutte le tecniche, quelle procreatiche, ma anche le altre possibilità attualmente esistenti, chi ritiene che queste tecniche siano intrinsecamente illecite, tenderà a volere una legislazione proibizionistica che sia al contempo creatrice o perlomeno incoraggiatrice di nuove attitudini, di nuovi costumi, là dove sembrava mancare una normativa cogente. Si tratta comunque in entrambi i casi di tendenze di fondo e non di meccanismi guidati da necessità. Per questo motivo ritengo di poter concludere questo primo momento di riflessione in maniera quanto scettica, sostenendo che le tecnologie sembri essere molto debole sia eticamente che giuridicamente, e che quindi vadano trovati altri registri, altri parametri fondativi per poter più solidamente impostare qui un rapporto corretto tra sfera giuridica e sfera morale. Quindi concedo senza difficoltà che di fatto il diritto debba riferirsi ai costumi, che sia creatore di costumi, dico semplicemente che in questo ambito riferirsi a questa dottrina classica del rapporto tra costumi e diritto rivela una grande debolezza. Una grande debolezza, cioè questa chiave inglese non apre. Cercarlo altrove non significherà comunque perdere completamente di vista la rilevanza di questo nodo classico. Esso diventerà forse in futuro di maggiore attualità, qualora le biotecnologie fossero entrate veramente nella nostra vita quotidiana. Per il momento, però, non si possono che emettere ipotesi al riguardo. Io non so se entreranno nella nostra vita quotidiana, sì o no. Per il momento, comunque, riferirsi in maniera, diciamo così, abbastanza ridotta solo ai costumi, mi sembra essere un vicolo cieco. Quindi vi concludo questo primo paragrafo, se volete, in maniera abbastanza scettica. Passo alla seconda possibilità, il riferimento alla cosiddetta, parlo sempre attraverso come si dice, le virgolette, il riferimento alla natura delle cose. Secoli di riflessione etica e giuridica hanno ritenuto che il diritto dovesse riferirsi alla cosiddetta natura delle cose, nel dare forma e dignità giuridica a singole attività dell'uomo nei confronti dei suoi simili e nei confronti della natura. Il diritto viene ad essere qui una forma di protezione di fronte agli abusi e soprusi che l'uomo stesso intraprende. La legge è espressione del dover essere dell'uomo, conosciuto attraverso un'esplorazione e riflessione di ciò che egli è già, ciò che è già intimamente insito nella sua stessa natura, natura tra virgolette. Ripeto in maniera forse velocissima, diciamo così, gli elementi classici della cosiddetta teoria del diritto naturale. Il mio intento, molto più limitato qui, non è tanto di né di ripresentare né di ridifendere questo approccio, è di quello di mostrare come tale riferimento alla cosiddetta natura delle cose, al di là delle difficoltà di fondo, sia praticamente, sottolineo praticamente, improponibile come soluzione ai nostri problemi specifici dell'area biomedica. Cos'è infatti la cosiddetta natura delle cose in medicina e in biologia? Io dico la verità, non lo so. Le scienze biologiche studiano gli organismi viventi nella loro conformazione e struttura più primigenia, ritrovata e definita nel cosiddetto DNA, struttura molecolare che sta alla base di ogni forma di vita. La normalità o rispettivamente la patologicità dei fenomeni biologici osservati viene in prima linea definita a partire da un criterio statistico di regolare apparire degli stessi o meno, e a partire dalle conseguenze di tali fenomeni sulla vita dell'uomo. Io stesso ne ho fatto l'esperienza alcuni mesi fa, mi sono preso una bella polmonite, di per sé a quell'organismo, a quel microorganismo abbastanza atipico che ha preso dimora nei miei polmoni, a lui andava benissimo la vita, il suo fenomeno non era patologico, lui viveva benissimo. Sono io che, cioè, la mia patologia fu definita dal mio medico curante rispetto alle conseguenze che io sentivo. Mi chiese il medico come stessi, se potessi alzarmi, se non potessi alzarmi, cioè tutta la definizione della mia patologia era riferita a me e alle mie possibilità e al fatto che io ritenessi lo stare a letto con 40 di febbre qualcosa di abbastanza indesiderabile. Però il microorganismo stava benissimo, lui non aveva difficoltà. Questo, cioè, è chiaro che i giudizi che noi poniamo sui fenomeni vitali sono sempre riferiti fondamentalmente a noi. Perché i fenomeni vitali in quanto tali, i fenomeni biologici non sono né buoni né cattivi, sono quel che sono. Le scienze mediche hanno introdotto una serie di nuove pratiche, da quelle procreatiche a quelle legate a nuove possibilità diagnostiche, legittimandole a partire da progressi possibili cui esse possono essere preludio. Anche per esempio la diagnosi prenatale viene legittimata come una possibilità di libertà maggiore per la donna incinta. Ma anche qui c'è un riferimento antropologico di per sé, fare un processo medico per sapere una diagnosi sullo stato di salute del feto, evidentemente è un fenomeno che di per sé non ha ancora delle sue apposizioni etiche. Anche in medicina vengono a valere criteri molto generali che in genere sono specifici alla ricerca scientifica non applicata all'uomo. La medicina stessa viene ad autocomprendersi come scienza naturale del corpo umano e non più come una ars, cioè come una forma di sapere pratico che sorge in un complesso movimento interattivo con i pazienti concreti e sofferenti. La concezione di medicina, così come è stata presentata stamattina, ad esempio, da Antonio Autiero, era evidentemente concepita come ars, cioè i giudizi posti dalla medicina sono dei giudizi rispetto al nostro benessere, e non dei giudizi di, diciamo così, non è semplicemente, la medicina non è semplicemente una biologia applicata all'Homo sapiens. Perché la medicina si limitasse a porre dei giudizi su dei fenomeni biologici, questi sono dei fenomeni che di per sé non sono né desiderabili né indesiderabili, sono dei fenomeni e basta. Il fatto che noi li vogliamo combattere attraverso delle attività terapeutiche, questo implica delle premesse di tipo antropologico che vanno al di là del puro sapere biologico. Il concetto di malattia e di terapia avevano finora indirettamente legittimato o condannato pratiche a seconda del loro intimo legame appunto con esse. Ora le nuove possibilità che sono appunto l'oggetto della ricerca bioetica non possono più riferirsi a questi parametri ritenuti sicuri e si rifugiano in un generico riferimento ai cosiddetti principi della scienza o progressi della scienza. Ma legittimare una pratica dicendo semplicemente che è progressista, che va nel senso del progresso della scienza, mi sembra una fondazione abbastanza debole. Anzi, non solo la legittimazione etico-giuridica si fa vaga, bensì si ritorce contro le pratiche stesse negando che esse siano pienamente riconducibili alla medicina in senso stretto. Così, ripetendo gli esempi già evocati, ci si chiede, a giusta ragione, se la sterilità combattuta con le tecniche procreatiche sia davvero da considerare come una malattia, e le tecniche stesse come una terapia in senso stretto. Molto probabilmente non vale né l'uno né l'altro, tant'è vero che le donne che fanno ricorso alle tecniche procreatiche in genere rimangono sterili anche dopo la tecnica procreatica. Oppure ci si chiede se diagnosticare un'anomalia prenatale sia da considerare come gesto medico e se l'interruzione di gravidanza vada vista come un atto terapeutico. E terapeutico per chi? Come si può ben vedere, tutti i riferimenti classici, in fondo la mia pars destruens è far vedere che le argomentazioni classiche vanno rinnovate perché non tengono più, come si può ben vedere, tutti i riferimenti classici finora usati per legittimare pratiche mediche sembrano entrare irrimediabilmente in crisi quando vengono meccanicamente applicati alle nuove possibilità della biologia molecolare e della genetica. Quindi considero, se volete, l'entrata di queste nuove tecniche non semplicemente un episodio tra gli altri, bensì una svolta epocale, sia in genetica sia in medicina. Inoltre, i confini tra ricerca fondamentale e ricerca applicata vengono in parte a svanire ed al contempo sembra essere insufficiente reclamare semplicemente per la prima una illimitata libertà di ricerca e per la seconda una regolamentazione che si rifaccia ai termini classici di anamnesi, diagnosi e terapia nel quadro ben definito di medico curante da una parte e di paziente curato dall'altra. Cioè i parametri classici dell'etica medica, secondo cui sono legittime tutte quelle azioni in cui c'è un paziente, in cui si fanno delle attività che sono terapeutiche, perché è chiaro cosa sia l'anamnesi, cosa sia la diagnosi, cosa sia la terapia, vengono a cadere perché non si sa bene più chi è il malato, che malattia abbia e in cosa consista la terapia. Quindi le colonne portanti vengono a cadere. Anche alcune istituzioni giuridiche nate all'interno di queste chiare distinzioni per garantire un minimo di giustizia e di solidarietà nel rapporto medico-paziente, come ad esempio la struttura delle assicurazioni sociosanitarie, vengono, mediante ad esempio le applicazioni dei test genetici postnatali, ad assumere funzioni nuove e certamente non del tutto moralmente legittimate. Io non so se un test postnatale è fatto come gesto indiretto di solidarietà con tutta la comunità dei sani, oppure se è un gesto che va a favore dell'assicurazione affinché i premi aumentino e le prestazioni diminuiscano, non lo so. Dico semplicemente che i parametri classici secondo cui noi abbiamo legittimato l'attività, ad esempio, di strutture assicurative, viene a cadere attraverso queste nuove pratiche. Ma allora, se il riferimento ai costumi non tiene, se il riferimento alla cosiddetta natura delle cose non tiene, quali riferimenti? Tutte queste considerazioni, che più che risolvere hanno soltanto sfiorato alcuni nodi della nostra problematica, potrebbero far credere che non ci sia più alcun criterio cui fare affidamento nell'attività di giuridificazione della materia qui trattata. Non è mia intenzione provocare scettici scrollamenti di capo, quanto piuttosto incentivare una ricerca differenziata di possibili soluzioni. Io non vorrei, dopo questa prima pars destruens, semplicemente dire continuiamo a scrollare il capo, non ci sono più fondamenti. Però la pars construens sarà estremamente debole, direi, cioè non vorrei ricostruire colonne assolutamente di piena durata come le autostrade svizzere o i tunnel alpini della Svizzera, no. La ricerca che ho potuto consultare al riguardo è rimasta, a dire il vero, abbastanza generica, almeno quando non abbia voluto regolare un ambito di pratiche ben definite. Quindi non mi sento in grado, dico chiaramente non mi sento in grado, quindi il dubbio è pubblico, non è che io lo voglio semplicemente fare una captatio benevolentiae, non sono in grado di proporre in questa sede in positivo una criteriologia compiuta cui debbano obbedire le proposte legislative necessarie. Lo stato della riflessione attuale rende necessario un tale limite per chiunque ed a fortiori per un giovane ricercatore come il sottoscritto. Anche il recentissimo rapporto presentato da una commissione del Ministero tedesco per la ricerca e la tecnologia, una specie di Genombericht, una specie di Bendabericht numero 2, che è uscito proprio settimana scorsa a firma anche di un nostro collega, cioè Franz Böckle, fa delle proposte legislative chiare, senza però legarle ad un disegno sistematico compiuto e coerente, bensì procedendo pragmaticamente, punto per punto, e rilevando di volta in volta quelli che sono i criteri più adeguati per fondare normative precise, anche se talvolta provvisorie, nei vari ambiti da regolare giuridicamente. Per la prima volta, in un documento anche statale, viene detto che a corta scadenza bisogna legiferare in questo modo, pronti a ridiscutere la cosa fra 2 o 3 anni. Cioè, chiaramente si ammette che non esista una criteriologia stabile. Ma allora, se non è possibile proporre in positivo dei criteri stabili su cui basare una legislazione, mi sembra più importante, per il momento almeno, è una consolazione non magra, ma direi una consolazione di quelle che dovrebbe tenere per un certo tempo, è meglio proporre in negativo quali siano le cose da evitare nell'attività legislativa, qualora si voglia con successo argomentativo dar spazio alle preoccupazioni etiche. E quindi vi invito con me a fare una piccola passeggiata via negationis, cioè cercando di vedere quali sono le cose da evitare più che dire quali sono le cose da fare. Il primo scoglio da evitare mi sembra essere quello del cosiddetto monismo argomentativo. Quest'ultimo mi sembra essere pernicioso appunto perché aporetico in etica, ma altrettanto mi sembra esserlo anche in campo giuridico. La debolezza dell'uso della proposta di un solo argomento, c'è sempre la specie di tentazione della reductio ad unum, cercherò un argomento che tenga fortemente e se quello c'è poi tutto tiene. Ecco. La debolezza dell'uso della proposta di un solo argomento sembra essere legata al carattere di cogenza che si vuole attribuire a quest'ultimo. Qualora l'argomento portato in campo fosse davvero cogente, allora mi sembra pure che la sua proposta sia sufficiente, secondo l'adagio, enzia non sum multiplicanda sine necessitate. Se l'argomento è buono, questo tiene, non è necessario cercarne altri. Quindi cerchiamo, incamminiamoci sulla via del monismo argomentativo. Io direi di stare molto attenti. È vero, enzia non sum multiplicanda sine necessitate. Però d'altra parte, bisogna sempre tener calcolo del fatto non sempre è possibile in questo campo proporre argomenti definitivi e anche quando ciò fosse possibile bisogna tener conto del fatto di essere in una civiltà strutturalmente pluralista, quindi il pluralismo non è un episodio, bensì è una svolta definitiva, e questo pluralismo esiste sia nella riferenza a istanze magisteriali, chi ascolta il Papa, chi ascolta il Presidente della Repubblica, chi ascolta ancora altre istanze magisteriali, sia nel peso dato a singoli argomenti. Quindi strutturalmente basare una legge su un solo argomento significa fare una legge che convince soltanto una parte dell'opinione pubblica. Quindi fondamentalmente uno degli argomenti contro il monismo argomentativo è quello di dire se funzione della legge è quella di creare anche un consenso sociale, questo non può essere che trovato a partire da vari argomenti. In questo senso una norma giuridica in campo biotecnologico, biomedico, andrà legittimata contemporaneamente a partire da vari punti di vista, tra loro non contraddittori, evidentemente tra loro non contraddittori, bensì complementari. Questa pluralità di figure argomentative non sarà segno di debolezza, bensì segno di rispetto per sensibilità etiche diverse e per le possibilità limitate del diritto, appunto perché il diritto non è onnipotente e tantomeno onnisciente. Seconda osservazione, sempre sotto il medesimo segno, bisognerà esercitare prudenza nell'affermare frettolosamente e perentoriamente l'esistenza di diritti, se non si è in grado di legittimarlo con chiarezza o di rispettarli coerentemente. Questa tendenza è una tendenza che io trovo sia all'interno di una parte del mondo cattolico, lo dico molto chiaramente, nel volere molto velocemente dichiarare subito molti diritti o creare dei soggetti di diritto, e la ritroviamo anche all'infuori dall'alveo cattolico, per esempio in una parte del movimento ecologico, una tendenza molto forte a dire gli animali hanno dei diritti, le piante hanno dei diritti, le rocce hanno dei diritti, eccetera, eccetera. Mi permetto di esemplificare qui a partire da fronti volutamente opposti per rendere plastico l'intento che voglio difendere. Facendo esempi opposti forse capirete perché io mi oppongo a una specie di pletora dell'affermazione di esistenza dei diritti. Nel campo delle tecniche, primo esempio, nel campo delle tecniche procreatiche bisognerà essere estremamente prudenti nell'affermare l'esistenza di un diritto alla fertilità o di un diritto ad avere una discendenza. Se questo fosse il caso, senza fare ulteriori distinzioni, non vedo perché si debba negare una tecnica di fertilizzazione artificiale ad una coppia di donne lesbiche o una vedova mediante l'inseminazione post mortem con il seme del marito defunto. e così di seguito, cioè se noi facciamo della fertilità un diritto fondamentale, c'è il rischio che poi lo dobbiamo garantire veramente a tutti. E se a un certo punto non lo vogliamo più garantire perché per una serie di ragioni, a ragione o a torto, lasciamolo stare, non lo vogliamo negare a qualcuno, non abbiamo più argomenti cogenti per negarlo. Quindi è meglio stare attenti nel voler assolutamente dichiarare che esista, per esempio, un diritto alla fertilità. Questo su un fronte. Adesso faccio l'esempio sul fronte contrario, in modo che un colpo al botte e un colpo dall'altra parte. D'altro canto, ad esempio, sul fronte antiabortista, bisognerà esercitare analoga prudenza nell'affermare l'esistenza di un diritto assoluto, sottolineo assoluto, dell'embrione al proseguimento della sua vita, costi quel che costi. Se ciò fosse davvero il caso, si dovrebbe postulare un dovere altrettanto assoluto da parte del personale sanitario toccato nel far proseguire la vita di quegli embrioni che per varie cause non arrivano ad impiantarsi nell'utero materno. Immaginate voi se questo è tecnicamente possibile. Voi potrete dire, per il fatto che è tecnicamente impossibile, cade anche il dovere. Però dal punto di vista del sistema giuridico, come dire, affermare un diritto che poi di fatto non può essere mai messo in atto, evidentemente questo va a scapito anche dall'affermazione del diritto stesso. Quindi è meglio star prudenti nel voler affermare in maniera molto perentoria che ci siano dei diritti. Questo come norma prudenziale. Non voglio giudicare adesso della bontà o meno di una di queste proposte, né delle tecniche procreatiche, né dei diritti dell'embrione. Dico semplicemente che bisogna stare attenti nel voler affermare diritti. Ecco. Io lo dico anche per esempio nei confronti dei diritti degli animali, quando mangiando una bella trota, assieme a un amico ecologo, ci mettiamo a discutere sui diritti degli animali mentre mangiamo la trota. Invece di portare in campo in maniera indifferenziata la categoria dei diritti e dei doveri, sarebbe più adeguato, in molti casi, legati alle nuove biotecnologie, parlare, per esempio, della presenza di interessi legittimi, che richiedono risposte parziali e differenziate. Sono il primo a riconoscere, per esempio, che qualsiasi donna abbia un interesse ad avere dei propri bambini, o ad avere dei bambini. C'è un interesse alla procreazione, ma un conto è l'interesse alla procreazione, un conto è il diritto alla procreazione. Per trovare quest'ultime, il diritto dovrà spesso riferirsi a quelle che vengono chiamate le indicazioni mediche, cioè a quell'insieme tecnico ed etico di criteri che la sapienza medica ha riunito come strumento per facilitare scelte difficili. Per cui, per esempio, un medico potrà dire, bene, l'accesso alle tecniche procreatiche è negato a tutte le donne sopra i 40 anni. È un'indicazione medica, se volete, che però non è soltanto tecnica, ma nel medesimo tempo anche una specie di soppesamento di valori, secondo cui dice, bene, se il santo non vale la candela, se gli effetti collaterali sono tali, bene, allora neghiamo, per esempio, alle donne più che quarantenni l'accesso alle tecniche procreatiche. Questa ripresa delle indicazioni mediche non dovrà essere meccanica, ma dovrà saper distinguere in esse ciò che è prezioso e ciò che può essere mascheramento di forme di potere paternalistico da parte della classe medico-sanitaria. Attraverso le indicazioni, la tecnica delle indicazioni, evidentemente si può nascondere anche il potere. Ecco, io ricordavo nel caso dei trapianti, per esempio in Svizzera, non vengono trapiantati al fegato gli alcolizzati, con una forma che io ritengo abbastanza paternalista, insomma, perché tu bevi non ti trapianto al fegato. Insomma. Si tratta di vedere se questo argomento, questa indicazione è sufficiente o non è una forma velata di paternalismo. Terzo elemento, nell'attività di legiferazione bisogna inoltre cercare di evitare una confusione spesso facile tra visibilità empirica dei fenomeni e la loro qualificazione morale. La maggior parte delle distinzioni che il sapere etico introduce per risolvere nodi normativi non sono empiricamente rilevabili. Si tratta infatti quasi sempre di costrutti mentali per qualificare azioni empiricamente uguali. Quindi empiricamente, per esempio, la distinzione molto discussa tra eutanasia attiva e passiva non può essere facilmente distinguibile a partire da attributi visibili. Io non posso dire sono andato all'ospedale di Trento e ho visto un'eutanasia attiva. Non si vede, l'eutanasia attiva e quella passiva non si vedono dal punto di vista, non sono degli attributi empirici. Il medesimo gesto medico, come ad esempio l'iniezione di una porzione di morfina, può assumere, a partire da circostanze e connessioni non del tutto empiricamente controllabili, significati morali tra loro opposti. Questa parziale invisibilità limita le possibilità di regolazione giuridica. Il diritto è legato a io non posso fare un processo a una persona senza ricorrere a dei fenomeni empirici. Non devo potergli dire, tu lunedì, il giorno tale del tale, alle 4:20, hai fatto questa azione. Ci vuole un grado di visibilità. In questo caso, in genere, il diritto manifesta la sua impotenza. Noi in Svizzera ne abbiamo fatto un'esperienza molto grave, ci sono stati dei ministri che hanno cercato di portare al banco degli imputati a fare dei processi a dei medici che erano imputati, accusati appunto di non di accanimento terapeutico ma di eutanasia attiva, e non si riuscì assolutamente a dimostrare nulla, perché appunto la qualità etica di un intervento, come quello per esempio di dare una porzione di morfina, la qualità etica non è determinabile empiricamente, anche se evidentemente alcuni gesti corrispondono sempre ad attitudini eticamente negativi. Ecco, non so, strangolare una persona, la strangolazione è una, non può assumere significato terapeutico, e quindi è empiricamente visibile e dimostrabile. Per questo ci sono dei processi per omicidio, ma alcune, o direi quasi tutte le pratiche di cui si discute qui sono di un altro tipo, appunto, in cui la visibilità, la empiricità non manifesta la qualità etica. Esserne coscienti significa non investire con strategie giuridiche là dove strutturalmente il diritto non può esplicare una funzione moralizzatrice diretta. Arrivo all'ultimo punto. Infine, il diritto dovrà evitare di appiattire la distinzione esistente tra azione e omissione. Va bene? Il diritto dovrà evitare di appiattire la distinzione esistente tra azione e omissione nell'ambito che qui ci tocca direttamente. La recente discussione etica ha cercato di rendere irrilevante la distinzione a partire dal fatto che le conseguenze pratiche in molti casi sono le stesse. La nuova discussione che è fiammata attualmente in Germania attorno all'uccidere o a lasciar morire, verte appunto su questo, dicendo che non c'è differenza tra azione e omissione, poiché l'effetto è lo stesso. Tale appiattimento è da ricondurre, a mio modo di vedere, non tanto al fatto che si sia introdotta una sempre più forte considerazione delle conseguenze degli atti posti. Io sono per la considerazione delle conseguenze, quindi fondamentalmente sono un teleologo, penso che siano rilevanti le conseguenze, ma la debolezza è dovuta al fatto che queste persone che dicono le conseguenze sono le stesse dimenticano o hanno come riferimento una teoria dell'azione estremamente primitiva, come se la qualità morale di un'azione fosse data semplicemente dalla empiricità del gesto. Il medico assassino o il medico non assassino possono empiricamente fare la stessa cosa, empiricamente, dal punto di vista puramente empirico. E quindi evidentemente, oppure le conseguenze possono essere le stesse, il medesimo atto fatto da una parte con intenzioni altamente terapeutiche e altamente umane può portare alle medesime conseguenze di un atto che invece vuole essere assolutamente distruttore. La medesima persona per esempio può morire alle 4:20 del pomeriggio a partire da due atti che sono eticamente da valutare in maniera diversa, solo che il diritto non ha gli strumenti per poter, e qui la differenza sostanziale tra il gesto giuridico e il gesto etico, il diritto non ha la possibilità di empiricamente decidere se questo è stato un atto omicida oppure un atto terapeutico. Gli aspetti maggiormente invisibili dell'intenzione, degli interessi conoscitivi in gioco, dei sentimenti in gioco, delle circostanze concomitanti, tendono a sparire dal campo di questa riflessione, e ciò con conseguenze facilmente immaginabili anche per l'ambito del diritto. Tutte queste distinzioni fatte finora hanno il senso di voler evitare le scorciatoie di un legame troppo univoco tra la sfera etica e giuridica, preferendo invece la via lunga e tortuosa, qui ripeto un po' anche la via della Didache, no? È meglio passare per la via lunga e tortuosa piuttosto che tra quella comoda e veloce, delle differenziazioni, la via tortuosa appunto delle differenziazioni e delle parziali coincidenze. L'orientamento generale di ogni norma al criterio del servizio alla vita, per quanto suggestivo e materialmente pertinente, chi è per la morte? Sono tutti per la vita, evidentemente, non sembra volerci davvero portare lontano. Potremmo tutti fare una specie di cantare tutti un inno assieme alla vita, perché chi vuole la morte? Tutti vogliono la vita. Si tratta che questa referenza da sola non ci porta molto lontano. Qui, infatti, tutto ciò che esamina e che trasforma è vita, e la preferenza per una forma di essa non può non andare a scapito di un'altra. Anche qui c'è una specie di vitalismo molto imperante anche in campo cattolico, che dimentica che non c'è mai vita senza la morte. Cioè, tutto il fenomeno vitale vive su una selezione tra vita e morte. E quindi la massimizzazione dei fenomeni vitali, dicendo tutti hanno il diritto massimo alla vita, dall'ameba all'homo sapiens, porterebbe a una catastrofe impossibile da pensare persino, perché tutto vive nel ciclo tra vita e morte. Finora questo compito di selezione tra vita e morte era lasciato ai cosiddetti meccanismi naturali, e si parlava e si parla ancora giustamente di selezione naturale, mentre ora esso è entrato almeno parzialmente nell'ambito delle possibilità gestibili dalla nostra libertà. Quest'ultima, questa povera libertà umana, fa fatica ad orientarsi e ad autonormarsi perché le sembrano mancare criteri chiari di orientamento. Non per nulla molti di noi reagiscono affermando che sia meglio lasciar fare la natura senza intervenire per non accollarsi troppi nuovi doveri. In questo discorso, che potrà sembrare a primo acchito disfattista, si nasconde comunque, secondo me, un nocciolo di verità. Si può guardare, infatti, a tutte le novità in campo biotecnologico e biomedico come ad una entrata della libertà umana negli stati di necessità della natura e quindi come ad un irrompere di competenza etica in un terreno finora eticamente neutro o rispettivamente tabuizzato. Noi vivevamo tabuizzando alcune zone, dicendo queste zone sono del tabù, per esempio la riproduzione, no? Oppure lasciavamo fare cosiddetta la natura. Cosa capita? Che mentre più noi entriamo a gestire questi fenomeni, aumentano i nostri doveri. E qui nasce un nuovo problema, che finora l'etica non si era mai posto, cioè abbiamo davvero noi un interesse ad avere così tanti doveri? Abbiamo veramente un interesse ad avere così tanti doveri? Cioè in fondo, i fenomeni delle tecniche di punta, che noi in genere consideriamo come fenomeni che fanno abbassare i costumi, che possono eventualmente essere immorali, eccetera, eccetera, di fatto sono il contrario, di fatto fanno aumentare le nostre responsabilità. E quindi ci potrebbe essere un discorso, non dico neoconservatore, comunque un discorso un po' malizioso da parte mia, di dire, ma è proprio nel nostro interesse poter fare alcune cose, perché se le possiamo fare dobbiamo gestirle eticamente. Ora farei quasi fare quasi un plaidoyer per una forma di pigrizia etica, se volete. Meglio essere un po' pigri, cioè non aprire troppi cantieri, perché più apriamo, più abbiamo doveri. Pensate ad esempio alla possibilità della scelta del sesso. Allora, se noi la limitiamo molto fortemente dicendo che giuridicamente è possibile scegliere il sesso di un nascituro quando ci sia una malattia ereditaria che è strettamente legata al sesso, allora va bene, apriamo, sì, però apriamo un caso molto particolare, molto preciso, con una indicazione medica molto precisa. Ma se noi la apriamo generalmente dicendo ogni coppia avrà il diritto di scegliere il sesso dei propri nascituri, voi immaginatevi la quantità di doveri che noi ci assumiamo, ci incolliamo. Doveri che prima non avevamo perché giustamente cosiddetta madre natura ci pensava lei, tutto quello che pensava lei non dovevamo pensarlo noi. Quindi in genere tutta la sfida bioetica consiste appunto nel dire quanto della natura facciamo entrare invece nella libertà umana. Questo è bello perché significa che riusciamo a sorpassare i limiti della natura e ben abbiamo fatto a farlo, giustamente. Fortunatamente portiamo occhiali, portiamo protesi, continuiamo a scavalcare i limiti della natura. Però a un certo punto arriviamo a delle tecniche che possono eventualmente crearci dei doveri che è meglio non avere, in cui si sta meglio senza averli, ecco. Per cui, se volete, farei una critica, per così dire, del cosiddetto progresso biotecnologico, a parte post più che a parte ante, non mettendo barriere ante postas, dicendo non abbiamo il diritto di entrare in questo tempio della natura. No, non faccio questi tipi di discorsi. Dico al massimo, prima di decidere se avanzare o non avanzare, chiediamoci se i doveri connessi con le nuove pratiche sono sopportabili oppure se ci vengono incontro dei doveri che non abbiamo la forza di gestire. Tutto questo per dire allora che i riferimenti ai costumi e i riferimenti alla cosiddetta natura delle cose non tengono, e ho proposto ora una specie di nuova criteriologia che non consiste tanto nel dire quali criteri, quanto nel dire non vale la pena di essere monisti, non vale la pena di avere un criterio solo, sebbene criteri vari che tra di loro si sorreggono e tra di loro si autocriticano. È una specie di soluzione in negativo, se volete, ma che in parte risolve il problema. Qui avrei tutto un nuovo capitolo, ma vedo che il tempo passa e quindi lo tralascio, lo potete leggere poi negli atti, riguardante invece quali istituzioni, quali sono i soggetti, quali sono le istituzioni che devono gestire queste cose. E al riguardo direi una sola cosa, ecco, che da una parte vorrei fare, non ho avuto la possibilità, una specie di lode appunto degli organismi intermediari, cioè non legiferare troppo dall'alto attraverso lo Stato, non legiferare troppo dal basso pensando che tot capite sono tot sentenze, cioè che ogni comitato etico di ospedale abbia la possibilità di legiferare, però di tenere una linea intermediaria con degli organismi misti, di cui volevo far rilevare, ma non ho il tempo, debolezze e forze. Le debolezze sono soprattutto quelle appunto legate al fatto del nemo est iudex in causa sua, che è la debolezza secondo me fondamentale, cioè se andiamo avanti con una divisione del lavoro come l'abbiamo oggi, alla fine una legge su alcune pratiche di punta la potranno fare soltanto coloro che la fanno. quindi questa è una aporia di cui dovremo cercare di uscire. Vorrei concludere allora, diciamo così, con una considerazione generale che ritocca il tema del nostro congresso. Quali compiti e quali contributo l'etica teologica può dare anche al processo di giuridificazione? Se già il discorso etico si rivela così materialmente impotente, ciò varrà a fortiori per la teologia nel suo apporto più specifico e genuino. Per questo, a mo' di conclusione, mi sono limitato a denunciare in maniera abbastanza frammentaria quanto, a mio avviso, la teologia può aiutare ad evitare nella ricerca etico-giuridica. Io non penso che la teologia, la riflessione teologica, possa dare un contributo impositivo all'attività legislativa. Ci sarebbero dei pericoli anche di neointegrismo che io voglio assolutamente evitare. Penso che la teologia può dare un contributo ad evitare alcune cose in queste strategie giuridico-politiche. In positivo, infatti, il contributo delle tradizioni teologiche non è tanto di principio quanto di sapienza etico-giuridica accumulata di fatto lungo i secoli di storia del cristianesimo. Cioè c'è una specie di competenza storica. Di fatto le teologie, le chiese hanno gestito questo rapporto tra la sfera etica e la sfera giuridica per secoli interi e qualcosa si avrà ben pure imparato, insomma. Quindi c'è una certa sapienza di cui ridare al mondo. Questo vale soprattutto, direi, anche per la teologia cattolica, perché la teologia cattolica ha sempre avuto nei confronti del diritto un rapporto cordiale rispetto invece ad altre tradizioni confessionali. Però penso che quello che oggi le tradizioni confessionali varie possono dare soprattutto è un contributo in negativo. Innanzitutto mi sembra importante sottolineare il fatto che la teologia ci rammenta che la qualità morale delle nostre azioni non dipende né dal fatto che esse siano socialmente o giuridicamente regolate, né tantomeno dal fatto che contro il loro non rispetto siano previste sanzioni negative. Questo penso che sia un ruolo della teologia, rammentarci che la qualità delle nostre azioni non è data dalle sanzioni sociali legate ad alcune pratiche. Il senso del diritto, quindi, è molto basso, tra virgolette. Esso regola pratiche anche se esse vengono motivate in maniera diversa e anche se le convinzioni metafisiche e religiose che le possono fondare non devono necessariamente essere accettate da tutti. È lo spirito, secondo me, che anima, ad esempio, un testo così tormentato e in gran parte, diciamo pure, abbastanza antipatico, di Romani 13, ad esempio, nella lettera di Paolo ai Romani. Paolo non vuole che i cristiani si richiamino alla loro specifica speranza escatologica per potersi ritenere dispensati dai doveri dei comuni mortali, come ad esempio quello di pagare le tasse o di partecipare a titolo uguale alla vita pubblica. È il senso di questo testo, tra l'altro. Paolo vuol rammentare i cristiani che sono ancora in questo mondo, che quindi devono partecipare delle miserie anche di questo mondo, e che quindi non hanno la possibilità di richiamarsi alla loro speranza escatologica per dire io mi defilo, non c'è la possibilità di defilarsi per i cristiani. In altre parole, il riferimento al messaggio specifico della salvezza non sacralizza il diritto, da una parte, né tantomeno lo abolisce per la comunità dei credenti. Tale via media può essere di grande esemplarità anche per coloro che si ritengono al di fuori dell'alveo ecclesiale. Questo è il primo contributo, se volete, in negativo da parte della teologia per il mondo della politica e per il mondo del diritto in questo ambito. Cioè preservarci da qualsiasi entusiasmo di tipo millenarista dicendo tanto noi non facciamo più parte di questa valle di lacrime, tra poco tempo saremo nel regno dei cieli, quindi queste miserie non ci interessano. Paolo risponde no, tu cristiano paghi le tasse, tu sei cittadino di questo mondo, tu ti devi mettere in questa realtà molto materiale di questo mondo. In secondo luogo, il ricordo che salvezza piena si dà solo nell'economia del dono gratuito di Dio nei nostri confronti, il rammento costante della sola grazia, ci preserva dall'investire nel diritto e nei suoi strumenti sogni di perfezione e di giustizia piena. Ogni crociata, per ben motivata che sia, non trova, a mio modo di vedere, una legittimazione teologica, perché appunto è la grazia che spiega, per così dire, che è portatrice di giustizia piena. Con gli sforzi del diritto si ha a che fare soltanto con una giustizia molto parziale. Anche nel campo delle biotecnologie il diritto può fare ben poco, e anche questo poco solo in maniera frammentaria. Ciò nonostante, i cristiani sono chiamati, anche a partire dalla loro prospettiva di fede, ad operare in vista di legislazioni perlomeno poco arbitrarie. E devono abituarsi anche a questo, a sapere che in questo mondo sono possibili soltanto legislazioni meno arbitrarie, non legislazioni perfette. Così va vista, ad esempio, anche l'accettazione da parte dei credenti del principio di maggioranza nelle decisioni giuridiche e politiche. Il principio di maggioranza non significa che automaticamente viene deciso qualcosa di giusto, semplicemente che questo criterio è il meno arbitrario possibile. Tale accettazione potrebbe portare, nelle nostre società post-cristiane, a regolamentazioni che non sono nel segno della nostra fede, ma ciò nonostante penso che tale principio, o meglio tale regola del gioco, sia da considerare come la meno arbitraria di altre possibili. In conclusione, la riferenza teologica non è in grado di proporci soluzioni ottimali, ma solo di preservarci da illusioni perfezionistiche. Queste ultime, infatti, non sarebbero tanto segni della gratuità dell'agire divino nei nostri confronti, queste tentazioni di etica perfetta attraverso l'instrumentum regni, attraverso la spada del diritto, quanto sarebbero piuttosto segnali della permanente tentazione di trovare perfezione definitiva nelle nostre opere. E sarebbe una forma, in tedesco si chiamerebbe di Werkgerechtigkeit, no? di giustizia ottenuta attraverso le nostre opere. La tentazione dell'autoidolatria si nasconde nelle pieghe più recondite del nostro agire e non trova rimedio nei nostri sforzi anche in quelli giuridici più compiuti. Vi ringrazio.